Buon pomeriggio a tutti da Mirko Cavallin in diretta oggi da Piazza San Marco a Venezia. Sentite lo scampanio del campanile di San Marco, lo scampanio del campanile che dà il via insieme al canto iniziale a questa solenne celebrazione eucaristica di apertura diocesana dell'anno della fede. Il saluto e ringraziamento anche al supporto tecnico è di Daici qui in Piazza San Marco a Venezia e Francesco Galante invece in controllo emissione a Padova. È un appuntamento importante, si è temuto fino all'ultimo per le condizioni meteorologiche. Questa mattina c'era l'acqua alta in Piazza San Marco, ora siamo verso l'orario di bassa marea e quindi la celebrazione con un cielo che anche parzialmente azzurro dovrebbe svolgersi tranquillamente. C'è stato qualche problema per lo sciopero dei treni, anche per l'afflusso oggi qui a Venezia, molti ritardi, ma tanti pellegrini, migliaia e migliaia radunati qui in piazza, oltre a evidentemente tantissimi turisti che sono qui presenti. È una celebrazione appunto che dà il via a pochi giorni dalla Santa Messa con Papa Benedetto XVI a Roma all'anno della fede, un evento che il Patriarca Monsignor Francesco Moraglia ha voluto proprio per dare solennemente l'avvio a questo anno anche in città di Venezia, e lo fa, cosa eccezionale, lo fa in piazza. È la terza volta nella storia che una Santa Messa si svolge in Piazza San Marco. La prima fu il 16 giugno del 1985 in occasione della visita di Papa Giovanni Paolo II. Mai prima d'ora la messa era stata celebrata all'aperto. Poi 10 anni dopo, 3 giugno 1995, il cardinale Marco Cè concluse con una Santa Messa l'anno marciano. E appunto a 17 anni da quell'ultima occasione, questo terzo appuntamento in piazza, una dichiarazione, una testimonianza pubblica di fede da parte della diocesi patriarcato di Venezia, lo fa in una delle piazze più importanti e più belle del mondo, davanti a tantissima gente curiosa, magari anche distratta, che sarà presente, che è presente oggi e potrà vedere le persone che cantano, che pregano, una Santa Messa celebrata appunto qui dove di solito si svolgono spettacoli di intrattenimento. C'è il palco del Carnevale nel mese di febbraio, qui oggi invece c'è una Santa Messa, e allora anche il canto ci può introdurre adesso alla preghiera. diretta da Piazza San Marco a Venezia. State seguendo su Blu Radio Veneto la celebrazione eucaristica di apertura dell'anno della fede. La processione è partita dall'interno della Basilica Marciana, è appena arrivata dalla parte opposta della piazza. Lo scenario è davvero notevole: dal fondo della piazza, che in ombra, invece la basilica con tutti i suoi mosaici illuminati dal sole che sta andando verso il tramonto, le campane che invitano a festa, invitano a festeggiare solennemente questo avvio, la processione con i crichetti che sono stati i primi e stanno prendendo posto, 2500 i posti a sedere oggi preparati, ma tantissima gente sta seguendo dall'esterno della zona transennata, l'accesso è libero, evidentemente tutti i sacerdoti della diocesi patriarcato di Venezia che concelebreranno questa santa messa, il coro, noi siamo proprio a fianco del coro che sta introducendo questa celebrazione. Il patriarca Francesco nelle scorse settimane aveva scritto una lettera di invito alle comunità, ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi, le religiose, i laici, tutte le aggregazioni ecclesiali. L'invito è appunto ad essere qui oggi alle 15:30 e chi non può essere qui fisicamente può partecipare attraverso l'ascolto nelle nostre frequenze. La Chiesa che in Venezia, ha scritto il Patriarca, è convocata sotto la presidenza del Vescovo all'altare, dove celebrando il Mysterium Fidei, il mistero della fede, intende iniziare un cammino di grazia. La porta della fede, ha scritto il Papa nella lettera apostolica che ha indetto proprio questo anno speciale, la porta della fede che introduce alla vita di comunione con Dio e permette l'ingresso nella sua chiesa, è sempre aperta per noi. L'Eucaristia, dice ancora il Patriarca, è il momento in cui la Chiesa si esprime nel modo più vero e compiuto. Ecco perché si è scelto di iniziare l'anno della fede celebrando all'altare il mistero del corpo e del sangue del Signore, ossia il Mysterium Fidei. Anche Gente Veneta nell'ultimo numero, il numero di questa domenica, ha dedicato ampio spazio anche con un'intervista al Vescovo Monsignor Francesco Moraglia, che tra l'altro è arrivato eccezionalmente qui a Venezia, perché in questi giorni, da domenica 7 ottobre fino al 28, sta partecipando come padre sinodale al sinodo dei Vescovi sulla nuova evangelizzazione. È una parentesi che ha voluto prendere per la sua diocesi e per unire ancora più fortemente il patriarcato di Venezia alla Chiesa universale. Mentre il coro sta ripetendo ancora il canto d'ingresso "Salga a te Signore", la processione si sta completando lentamente. Ora sono i chierici del seminario che si intravedono dalla nostra postazione mentre prendono posto tra l'assemblea. Questa santa messa avrà un momento particolare, è una messa ordinaria di per sé, la messa di questa domenica del tempo ordinario, quindi con le letture previste appunto dalla liturgia di oggi, ma ci sarà un momento particolare. Innanzitutto l'omelia di Monsignor Moraglia, che poi troverete fra circa un'ora, intorno alle 16:30, disponibile sia in testo che in audio sul nostro sito bluradioveneto.it. Un'omelia che anticipa i contenuti di una lettera che poi sarà consegnata alla fine a tutti i partecipanti. Lettera intitolata "So in chi ho posto la mia fede", citazione della seconda lettera a Timoteo, un invito alla fede. E l'omelia, di cui noi abbiamo avuto alcune anticipazioni, è davvero un piccolo compendio, potremmo dire, rivolto certamente ai fedeli, ma a tutte le persone, agli uomini di buona volontà che sono qui presenti in piazza. Questo momento appunto è voluto essere pubblico. La lettera poi sarà consegnata alla fine e anche di quello troverete più tardi sul sito bluradioveneto.it una piccola sintesi, un'anticipazione dei contenuti. La processione va a completarsi, c'è anche, intravediamo nel primo posto dell'assemblea il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, presenti evidentemente anche le autorità civili della città e del territorio. I primi diaconi sono arrivati nella zona presbiterale, nella zona della celebrazione, mentre ora sono i sacerdoti che si avvicinano a prendere posto in piazza San Marco. Ancora qualche nota del canto e poi entriamo proprio nella celebrazione di oggi. Il canto iniziale si sta ripetendo più e più volte, ma la processione è davvero lunga. Solamente adesso il patriarca Monsignor Francesco Moraglia sta arrivando nei pressi dell'altare, accompagnato nella coda della processione dai sacerdoti, dai vicari, dai canonici della Basilica di San Marco. Ovviamente il vescovo lungo il percorso approfitta anche per salutare le persone, per dare delle benedizioni. Dicevamo nel corso l'omelia di oggi sarà un primo intervento che il Patriarca intenderà offrire nel corso di quest'anno della fede appena iniziato, che si concluderà alla fine di novembre del 2013. Il primo momento è oggi, appunto, l'omelia e poi la consegna della lettera, proprio un invito alla fede. Il secondo momento sarà a febbraio del 2013. Appuntamento che invece sarà a livello zonale, quindi non un unico momento centrale. Febbraio sul tema il rapporto ragione-fede, poi a maggio la fede e la socialità sul vocabolario della dottrina sociale della Chiesa. Ora anche i concelebranti insieme al Patriarca sono arrivati nella zona presbiterale, viene posizionata anche l'icona della Vergine Nicopeia in fianco all'altare. Ci sono alcune persone che portano una copia del catechismo, visto che quest'anno si ricordano i 20 anni del rinnovato catechismo della Chiesa Cattolica, oltre che i 50 anni del Concilio Ecumenico Vaticano II. Anche il Patriarca è arrivato nei pressi dell'altare, che andrà ora a baciare prima di dare inizio alla celebrazione. Del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Reverendissimo Padre Patriarca Francesco, nella sua lettera inviataci a luglio, nella quale ci invitava a partecipare a questa celebrazione eucaristica per l'apertura dell'anno della fede, tra l'altro ci diceva: porre come primo atto dell'anno della fede la celebrazione eucaristica a San Marco, la Chiesa Cattedrale, vuol dire affermare che il culto è l'atto di fede più alto, a noi renderlo operante anche a livello sociale attraverso una testimonianza di vita realmente rinnovata a contatto con il corpo e il sangue del Signore. In questi 2 mesi abbiamo cercato di prepararci ed ora siamo qui per vivere in modo corresponsabile questo evento di grazia. Riconosciamo in lei il successore degli Apostoli, colui che nella fede è, per tutti noi cristiani della Chiesa di Venezia, garante di una fede certa, di una speranza affidabile, di una carità fattiva e testimoniale. La redizio simboli, attraverso la quale lei ci consegnerà il simbolo della nostra fede, ci impegna ad accoglierlo nel nostro cuore per viverlo nelle scelte e nelle esperienze quotidiane della nostra vita. Desideriamo, come si auspica Papa Benedetto nella lettera apostolica Portafilei, di riscoprire il cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia e il rinnovato entusiasmo dell'incontro con Cristo. Ci confermi, Padre, secondo il mandato di Cristo a Pietro, perché riscopriamo la gioia di essere e di vivere da fedeli discepoli di Cristo nella Chiesa. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, preghiamo umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro. Per Cristo nostro Signore. L'aspersione è il primo segno penitenziale. Il patriarca con l'acqua benedetta prima ha sperso se stesso e ora i concelebranti a bordo del palco dove è sistemato l'altare della celebrazione passa appunto per questo segno di aspersione, di purificazione all'inizio della celebrazione. Dio onnipotente, ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno. Gloria in excelsis Deo. Thank you. preghiamo. O Dio nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri dell'uomo, non c'è creatura che possa nascondersi davanti a te. Penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola, perché alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne e diventare liberi e poveri per il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Sapienza. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferì a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Parola di Dio. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Saziaci, Signore, con il tuo amore, gioiremo per sempre. Manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Saziaci, Signore, con il tuo amore. Gioiremo per sempre. Dalla lettera agli Ebrei. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Parola di Dio. Grazie. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: e chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Ed ora l'attesa omelia di Monsignor Francesco Moraglia, incentrata su questo invito alla fede. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, iniziamo l'anno della fede con l'ascolto di una parola difficile. La pagina del Vangelo di Marco appena letta, che non ci chiede tanto di essere poveri, ma di considerare Gesù come l'unica ricchezza. Questo è l'invito rivolto alla Chiesa di Venezia, al patriarca, ai diaconi, ai presbiteri, ai consacrati, alle consacrate, ai giovani, agli anziani, ai sani, ai malati, a tutti, nessuno escluso. E allora, innanzitutto, l'anno della fede è un anno di conversione. Crescere nella fede vuol dire semplicemente appartenere a Dio, testimoniare con la vita battesimale il Signore Gesù. Per questo necessitano occhi nuovi, occhi che sappiano guardare oltre il momento presente, liberi nel coglierlo secondo la verità e la giustizia. Quando nella preghiera del Padre nostro rivolgiamo la domanda: venga il tuo regno, con questa domanda che Gesù pone all'inizio della preghiera per eccellenza, noi non siamo di fronte a una via di fuga dinanzi al presente, che talvolta può essere anche faticoso. Al contrario, questa domanda ci invita a compiere qualcosa di concreto attraverso una vita di fede più attenta e generosa, con cui, rispondendo alla grazia, si possa vivere il tempo presente comunicandogli il respiro dell'eternità, considerando i piccoli semi di verità e di giustizia che non mancano mai attorno a noi. In questo tempo di grazia, che è l'anno di fede, pastori e fedeli sono chiamati a testimoniare personalmente e comunitariamente quanto l'apostolo Paolo al termine della vita scrive a Timoteo: so in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. L'anno della fede ci chiama personalmente in causa assieme alla comunità ecclesiale, invitando all'esame di coscienza sul modo in cui vivere e professare la fede oggi. Una revisione di vita che voglia essere vera conversione deve innanzitutto qualificarsi in termini di critica generosa, ossia in termini di autocritica, il che significa non puntare il dito contro nessuno. Bisogna superare le recriminazioni, forse anche espressioni di animi storicamente amareggiati, certamente di animi non ancora capaci di perdono generoso. Se è il caso, contrastiamo tali stati d'animo con più coraggio, con più fiducia, con più amore, con umiltà e desiderio di riconciliazione. L'anno della fede deve iniziare di qui. La questione decisiva o caso serio nel nostro personale cammino verso una fede più matura richiede di far nostre, senza interpretazioni di comodo, le pagine difficili del Vangelo, cominciando da quella di Marco che abbiamo appena ascoltato. Si tratta allora di fare esodo verso la verità di Dio, premessa per ricostruire vere relazioni personali e comunitarie, un'idea di tolleranza non fondata sulla verità alla fine risulta fuorviante, destinata a condurre prima all'indifferenza, poi alla reciproca estraneità. Bisogna, secondo l'esortazione dell'apostolo Paolo, non essere pigri nella fede, ma piuttosto saper scorgere attraverso di essa le meraviglie di Dio. La fede non si esaurisce nell'atto personale del credere. L'affermazione "io credo" porta sempre con sé anche la dimensione comunitaria del credere con gli altri. Noi crediamo. La forma ecclesiale del credere è parte strutturale della fede. Noi infatti un giorno abbiamo ricevuto la fede da qualcuno, o almeno qualcuno ci ha rinsaldati in essa. Emblematico è il caso di Paolo, che dopo l'incontro diretto con Cristo risorto sulla via di Damasco, attenzione bene, viene mandato da Anania, che lo introdurrà nella vita di fede, nella vita della Chiesa. Ciascuno di noi in modo simile condivide la fede con chi gliel'ha annunciata e con quanti insieme a lui credono. Sì, la fede va condivisa con gli altri, o meglio con la Chiesa, all'interno della comunione del popolo di Dio, che, come insegna il Concilio Vaticano II, va intesa sempre come unione di fedeli e pastori. L'io che crede in Gesù Cristo non può essere altro che la Chiesa di Gesù Cristo. La fede del cristiano è dunque partecipazione alla fede della Chiesa, ma una fede non è fede nella Chiesa, è fede della Chiesa. L'anima cristiana è un'anima ecclesiastica. Questo lo diceva Henri de Lubac, uno dei grandi teologi che ha preparato col suo pensiero il Concilio Ecumenico Vaticano II. Sì, de Lubac dice: l'anima cristiana è un'anima ecclesiastica, e con ciò si riconoscono ed evidenziano gli elementi che anche storicamente segnano la vita di fede della sposa del Signore. Un pensiero ricorrente nel Magistero di Benedetto XVI ribadisce poi che l'uomo si pone in relazione con Dio attraverso il prossimo. Noi, d'altra parte, comunichiamo con gli altri credenti attraverso i contenuti della fede. Noi crediamo le stesse cose. Due persone che non si conoscono, che non appartengono alla stessa cultura, che non parlano neanche la stessa lingua, ma credono in Gesù Cristo, attraverso la loro fede comunicano fra loro nelle cose più importanti. Non si conoscono, non parlano la stessa lingua, ma sanno chi sono, da dove vengono, dove vadono. Sanno di essere garantiti oltre la morte nella loro fragilità umana. Sanno che cosa c'è dopo questa vita. Sanno che cos'è il bene, che cos'è il male. Si manifesta così la dimensione comunitaria del credere. E Benedetto XVI lo evidenzia: l'uomo non è chiamato da solo alla salvezza, ma all'interno della comunità ecclesiale. Gesù, con il suo amore, attira a sé gli uomini di ogni generazione e di ogni tempo. Convoca la Chiesa affidandole l'annuncio del Vangelo con un mandato che è sempre nuovo. Nella Chiesa ogni realtà è personale e nello stesso tempo è comunitaria, nulla di individuale, a iniziare dalla fede che introduce l'uomo nel mondo di Dio e nell'alleanza tra Dio e l'uomo e degli uomini fra loro. Quando Gesù comincia ad annunciare il regno, raduna attorno a sé il nuovo popolo di Dio, costituito inizialmente dai dodici e dai discepoli. Gesù poi congiunge il gesto sacramentale, quello che noi fra poco ripeteremo, il gesto sacramentale del pane spezzato e del vino effuso con la piena comunione ecclesiale. La salvezza non si esprime così come la presenza individuale di Gesù nella mia coscienza, ma nel dono di Lui vivente e presente nella Chiesa. La dimensione comunitaria della fede non solo non schiaccia l'io della persona, ma fa in maniera che il singolo credente non cada in una fede facile ed illusoria che potremmo definire la fede fai da te. La fede nella sua dimensione comunitaria e relazionale è alla fine essenziale e permette a ciascuno di noi di raggiungere la pienezza umana. La fede fai da te è comunque rischio ricorrente, soprattutto nella nostra epoca segnata dall'individualismo, che pretende di rinchiudere ogni cosa all'interno di un io, che invece di incontrare l'altro nella vicenda storica di Gesù di Nazaret finisce per imbattersi nel proprio io, o più realisticamente nella cultura dominante del determinato momento storico. In altri termini, stante il progetto di Dio, che è il Signore Gesù, gli uomini, noi, siamo chiamati a una salvezza non individuale, ma personale e comunitaria. Siamo costituito, lo si sappia o no, in popolo. I dodici, colui che il Signore si è scelto, saranno, e la loro fede sarà per sempre, il fondamento della fede ecclesiale. Loro sono e rimangono coloro che hanno visto e ascoltato il Signore, che hanno vissuto con Lui, che l'hanno seguito a Gerusalemme, che l'hanno visto morire in croce, ma soprattutto l'hanno incontrato nuovamente vivo il terzo giorno. È davvero apparso a Simone. La Chiesa è fondata sulla fede degli apostoli. La nostra fede è sempre fede apostolica. L'anno della fede è nello stesso tempo un itinerario personale del discepolo ed è un cammino dell'intera Chiesa. Costituisce l'anno della fede un percorso che conduce il credente verso un più vero e intenso incontro con la persona di Gesù. Il Concilio Vaticano II si inserisce in un cammino ecclesiale di riforma nella continuità. Cristo, col suo Vangelo, col suo buon annuncio, ci raggiunge tramite la Chiesa e il suo ministero. Fondamentale è l'esperienza personale di quei dodici, a partire dagli incontri che quei dodici ebbero col Signore risorto il giorno successivo al sabato. La Chiesa negli uomini e donne che la compongono è la prima destinataria dell'annunzio cristiano. Davvero il Signore è risorto. È ciò che si sentono dire i due discepoli di Emmaus dagli undici. Poi a sua volta la Chiesa, evangelizzata nella fede, diventa soggetto evangelizzante. Benedetto XVI lo sottolinea quando nella lettera Porta Fidei afferma: la stessa professione di fede è un atto personale e comunitario. È la Chiesa infatti il primo soggetto della fede. Io credo. È anche la Chiesa nostra madre che risponde a Dio con la sua fede, che ci insegna a dire: io credo, noi crediamo. È necessario nell'inizio di quest'anno della fede ascoltare di nuovo il richiamo dell'Apostolo Paolo, che nella lettera ai Romani parla del compito e della missione della Chiesa nei confronti dell'annuncio del Vangelo cristiano. Dice San Paolo: come invocheremo colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati invitati? Come sta scritto: quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Le nostre comunità devono essere in questo anno della fede mandate ad annunciare. È quindi attraverso la Chiesa mandata che noi incontriamo Dio e possiamo credere in Lui, ma nonostante ciò, come detto, l'atto di fede rimane un gesto libero, certo un dono, ma un dono che Dio non fa mancare e non fa mancare a nessuno, se no non sarebbe più Dio, ragionerebbe coi criteri degli uomini. E allora non bisogna essere tanto filosofi per capire che se Dio c'è e la fede salva, il dono della fede Dio non lo fa mancare a nessuno. Secondo questa logica, immaginare un incontro con Dio escludendo il prossimo equivarrebbe a una radicale incomprensione della rivelazione cristiana, per la quale gli altri, per la stessa volontà di Gesù, sono i segni dell'incontro con l'altro. Ed è Gesù che ce lo ricorda. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualcosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Dato che la fede di cui parla Gesù è sempre legata all'amore, allora nella vita di fede assume particolare rilevanza l'apertura del cuore. È un altro punto da mettere in agenda in questo anno della fede. Fede e carità si esigono a vicenda. Per questo l'anno della fede deve essere occasione per crescere nella testimonianza reciproca della carità. Una vita di fede priva delle opere costituisce di per sé un'obiezione fondamentale alla fede, una contraddizione in termini. Non è vera, non è genuina, non è salvifica una fede che sia incapace di amare. Si può dire piuttosto che è una fede che ha smarrito se stessa. In tale prospettiva comprendiamo quanto sia decisivo ciò che Giovanni scrive nella sua prima lettera. Se uno dice io amo Dio e odia suo fratello, è un bugiardo. Così la fede, soprattutto quando l'ascolto si fa preghiera, conduce a vivere la comunione più intensa con Dio, una comunione che si esprime in una fraternità più grande, che sorprende e riempie di stupore quanti sono coinvolti. Il culto, ricordiamolo bene, non risulta gradito a Dio se non esprime un cuore riconciliato. Se presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono. Va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna ad offrirlo. La fede si esprime secondo modalità e gesti. La domenica, il giorno del Signore. Il rischio, soprattutto in epoche che si caratterizzano per la veloce transizione, la cosiddetta società liquida, il rischio è confondere il patrimonio che esprime la grande tradizione con un passato che invece non ha più la forza di incidere sul presente dei singoli e delle comunità. Allora diventa oltremodo facile passare ad una fede che nei fatti non risponde più a una scelta di vita, a un preciso modo di pensare, di parlare, di agire, ma piuttosto a un freddo conformismo a cui ci si consegna e aggrappa e del quale si ha bisogno per coprire le proprie insicurezze. Un altro pericolo sul quale siamo chiamati a vigilare è il rischio di confondere l'elemento religioso dell'atto di fede con quello sociale e sociologico che può caratterizzare un particolare territorio o una determinata popolazione. Anche gli antagonismi e le guerre di religione non sono contrasti intrinsecamente connessi ad una vera fede, a una fede autentica, ma piuttosto appartengono alla vita, alla storia, alla cultura di un'etnia, di un popolo, di una società, non alla genuina vita di fede. L'anno della fede, oltre che ricordare il 50° anniversario dell'inaugurazione del Concilio Ecumenico Vaticano II, intende anche richiamare a 20 anni dalla sua promulgazione il Catechismo della Chiesa Cattolica. Chiedo a tutti, soprattutto ai parroci, la lettura meditata delle 4 costituzioni conciliari, la lettura meditata del Catechismo della Chiesa Cattolica, siano i cammini che ci accompagnano a livello personale e comunitario in questo anno. I 2 livelli, personale e comunitario. È desiderio del Papa fare in modo che il Catechismo, in cui è trasfuso lo spirito, la lettera del Vaticano II, trovi una più grande accoglienza nelle nostre comunità. Ed è proprio Giovanni Paolo II che nel 1992, 20 anni fa, nella Costituzione Apostolica Fidei Depositum, ricordava che questa idea di un catechismo della Chiesa Cattolica nasceva dal sinodo del 1985. È importante che nell'anno della fede, nella nostra Chiesa particolare, il Vescovo, i parroci, i diaconi, le persone consacrate, i fedeli laici si ritrovino nella lettura personale e comunitaria delle grandi costituzioni del Concilio Vaticano II, nella lettura personale e comunitaria del Catechismo della Chiesa Cattolica. Sarà questo un gesto concreto di recezione e di amore verso il Concilio Vaticano II. Chiedo che tale impegno sia assunto da tutti, in modo particolare dai parroci. Ricordo pure che la piena recezione del Concilio chiede di promuovere nei nostri cammini formativi, personali e comunitari l'apertura al mondo, guardarlo con simpatia, con amicizia e con quel giudizio di critica che non è condanna, ma che non rinuncia a dire la verità di Gesù Cristo. Il beato Giovanni Paolo II si è servito di espressioni in cui diceva con amore quanto era importante annunciare la verità. Fin da questi primi mesi, la lettura del Concilio Vaticano II, il Catechismo della Chiesa Cattolica attraverso il compendio, che può essere un'introduzione al Catechismo, ci accompagnino nel nostro cammino di una fede che vuole amare e di un amore che vuole essere confermato nella fede di Gesù Cristo. Mi ha colpito vedere come il Concilio di Trento, che è stato ripreso dal Catechismo della Chiesa Cattolica, dica che tutta la sostanza della dottrina e dell'insegnamento deve essere orientato alla carità, che non avrà mai fine. Sia che si espongano le verità della fede, dice il Catechismo romano, ripreso dal Catechismo della Chiesa Cattolica, sia che si espongono le verità della fede o i motivi della speranza o i doveri dell'attività morale, sempre e in tutto va dato rilievo all'amore di nostro Signore. A tutti auguro un anno della fede in compagnia con Maria, la prima discepola del Signore, il Salvatore del mondo. Avrei voluto qui la presenza del Cardinale Marco Cè. Le condizioni di salute non glielo consentono. Gli ho chiesto allora di farsi vivo a ciascuno di noi con un breve scritto. Scrive il Cardinale Marco Cè: carissimi, oggi la nostra Chiesa dà inizio solenne all'anno della fede e questo ci vede convocati intorno al nostro Patriarca, pastore e guida di questa comunità nel suo cammino verso il Signore. Voi potete immaginare con quale gioia io avrei voluto essere con voi in un momento così importante. Ma i limiti dell'età me lo sconsigliano. Questo non mi impedisce di vivere con voi in profonda comunione l'invocazione dello Spirito Santo, perché susciti in noi il desiderio e la volontà efficace di rinnovare e ravvivare il nostro assenso di fede, per tradurlo poi, giorno per giorno, in una vita di sequela del Signore. La fede è il dono più grande che Dio potesse farci, dono assolutamente gratuito. Esso ci rende partecipi della stessa vita di Dio, facendoci suoi figli nel Figlio Gesù. Ci abilita a rivolgerci a Lui chiamandolo Abba Padre, come faceva lo stesso Gesù. Ci fa chiesa, famiglia dei figli di Dio. Di fede è impastata tutta la nostra storia. Venezia nasce cristiana. Non dobbiamo permettere che questo sigillo di Dio sulla nostra vita col volgere del tempo si appanni travolto dalla deriva secolarista che segna duramente questa nostra stagione culturale. Anzi, la nostra fede deve essere fuoco che tende a comunicarsi, come è stato per gli apostoli nel giorno di Pentecoste. Chi è vicino a me, al fuoco, avrebbe detto Gesù secondo la tradizione trasmessa da un antico scrittore cristiano. In tal modo la fede diventa amore, amore per il fratello mediante la solidarietà, la partecipazione, la condivisione, al di là di ogni colore della pelle e di ogni altra connotazione. Chiedo al Signore di vivere con voi, che da oltre 30 anni siete la mia famiglia, questa grazia dell'anno della fede. Metto questa mia preghiera nelle mani del nostro Patriarca, perché la affidi alla Santa Nicopeia e lei a Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Venezia, 14 ottobre, Marco, Cardinale Cè, Patriarca Emerito. Con questa citazione del Patriarca Marco si conclude dunque questa lunga, intensa omelia. La trovate già il testo a disposizione sul nostro sito bluradiovaneto.it. Tra poco potrete anche scaricare e riascoltare l'audio. In realtà, rispetto al testo che è stato diramato questa mattina, il Patriarca ha fatto qualche digressione, in qualche parte ha fatto un piccolo riassunto, qualche passaggio non è esattamente corrispondente al testo, ma questo primo momento, insomma. Il Cardinale Marco Cè fu l'ultimo a celebrare, il secondo nella storia e l'ultimo 17 anni fa a celebrare una Santa Messa qui in Piazza San Marco a conclusione dell'anno marciano, e appunto avrebbe voluto anche lui essere qui presente ma è spiritualmente unito a tutti. Ora la liturgia prosegue con il momento fondamentale che è la professione di fede. La professione di fede. Accendiamo le candele che ci sono state consegnate. Il patriarca reciterà a nome di tutti noi i capitoli del credo e noi risponderemo con forza e con gioia con il canto, innalzando le candele accese. Ci alziamo. Ora il tempo che sta passando è per poter passare l'accensione della candela a tutti, circa 3.000 presenti, 2.500 seduti, forse anche di più tra quelli che sono appoggiati alle transenne esterne di Piazza San Marco. Io sono, durante l'omelia, ho fatto un giro in piazza per rendermi conto della situazione. C'è tanta gente, più di 1.000 sicuramente, che sono appoggiati e stanno partecipando alla messa in piedi all'esterno delle transenne. Poi la piazza continua a vivere della sua vita ordinaria tra bar, bancarelle, turisti, fotografie, distratti. Forse qualcuno nemmeno si sta accorgendo di cosa sta succedendo qui in piazza oggi. Qualcuno forse è anche incuriosito per questa presenza strana. Un palco che di per sé dal fondo della piazza vicino alla basilica non è visibilissimo, perché non è stato fatto uno scenario molto evidente. Il palco è alto circa 1,5 metri, ma non ha particolari evidenze alle persone che sono qui oggi. E anche questo è significativo, insomma, che credo in un solo Dio fatta oggi. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, in questo anno dedicato alla fede che il Signore ci dona, invochiamo su di noi, sulla nostra Chiesa e sul mondo, lo Spirito del Signore, perché sia Lui a insegnarci a credere in Dio nostro Padre e a conformarci all'immagine del Suo Figlio Gesù Cristo. Insieme dicendo: donaci il tuo spirito, Signore. Donaci il tuo spirito, Signore. Dona, o Padre, il tuo santo spirito di sapienza ai nostri pastori. Accompagna il Papa Benedetto XVI, il Patriarca Francesco, i presbiteri e i diaconi con la tua grazia, perché siano per noi il segno della tua reale presenza e del tuo amore. Preghiamo. Donaci il tuo spirito, Signore. Dona, o Padre, con il tuo spirito a quanti amministrano il bene comune il dono dell'intelletto, perché sappiamo leggere dentro le varie situazioni il tuo appello a diventare noi stessi un dono per il bene comune ed il servizio di tutti. Preghiamo. Dona, o Padre, ai genitori e agli educatori il tuo spirito di consiglio, perché sappiamo discernere il vero bene dei bambini e dei giovani, e ad insegnare loro nel compito della tua volontà a costruire il tuo regno di amore e di pace. Preghiamo. Dona, o Padre, il tuo spirito di fortezza e di coraggio ai giovani del nostro patriarcato, perché sappiamo abbracciare con gioia la vocazione che tu proponi ai nostri cuori e rispondere con gioia alla tua proposta, contagiando con la nostra testimonianza quanti tra noi stanno riducendo la vita alla ricerca di piacere e di fuga. Preghiamo. Dona, o Padre, agli insegnanti di ogni ordine e grado, e specialmente a quanti sono impegnati nell'insegnamento teologico, il tuo spirito di scienza, perché attraverso l'umile ascolto della tua parola e della tradizione possano trasmettere la verità che sono via al cielo. Preghiamo. Donaci il tuo spirito, Signore. Dona, o Padre, il tuo spirito di orazione, di pietà a tutti noi, specie quanti hanno consacrato la vita a te e alla Chiesa. Risveglia in mezzo a noi l'originaria forza dei carismi che il tuo spirito ha suscitato nei fondatori delle congregazioni religiose e nei movimenti ecclesiali, in piena comunione possano servire l'annuncio del Vangelo. Preghiamo. Dona, o Padre, a tutti noi il dono del tuo santo timore. Insegnaci a cercarti in ogni cosa, e una volta trovato possiamo cercarti ancora, lasciando che arda sempre in noi il desiderio di te. Così questo anno della fede che tu ci doni possa portare frutti celesti duraturi. Preghiamo. Accogli, o Padre, le preghiere che la tua Chiesa nel nome del tuo Figlio ti ha rivolto, invocando il dono del tuo Santo Spirito e dei suoi 7 doni, perché questo anno di fede abbia dal mistero della Santissima Trinità il suo inizio e il suo compimento, per Cristo nostro Signore. State seguendo in diretta su Blu Radio Veneto da Piazza San Marco in Venezia la Santa Messa solenne di inizio diocesano dell'anno della fede. L'omelia poi la riprenderemo in parte, l'omelia del Patriarca. Ricordiamo che è disponibile già in testo e in audio sul nostro sito bluradioveneto.it, anche con la citazione che non era prevista delle parole del messaggio di saluto del Patriarca Emerito Marco Occe. Inizia dopo la lunga liturgia della parola che è culminata appunto con la professione pubblica della fede qui in piazza, il Patriarca a nome di tutti con la risposta del ritornello dell'assemblea ha risposto: credo, Signore, amen. E la terza parte della messa, che ora va a iniziare la liturgia eucaristica, ha preparato l'altare della celebrazione con il pane e il vino. I diaconi stanno preparando appunto le sacre specie per la consacrazione. La messa non avrà ulteriori momenti particolari se non alla fine la consegna appunto di questa lettera sulla fede, un invito alla fede del Patriarca, una lettera che avrà come fulcro il testo dell'omelia, ma sarà in forma più estesa e sarà poi disponibile alla distribuzione dei fedeli. fedeli presenti, ma anche nei giorni successivi nelle comunità. Edizioni CID di Venezia. Sono due i cori che accompagnano questa celebrazione, quello che adesso sta cantando con tonalità più classiche, mentre c'è un coro di giovani che propone, con l'accompagnamento anche di un paio di chitarre, altri canti di questa celebrazione che continuiamo a seguire insieme. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere, e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Forte, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode di Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Mirabile l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale e sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri nella notte in cui fu tradito. Egli prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. E faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Marco Evangelista e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Benedetto, il nostro Patriarca Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Da Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Raccogliamoci in silenzio per prepararci al momento della comunione. I diaconi e gli accoliti incaricati, accompagnati dagli ombrelli segnalatori, stanno prendendo posizione per la distribuzione dell'Eucaristia. Quanti sono battezzati e in grazia di Dio possono avvicinarsi con ordine al ministro più vicino del proprio settore e poi tornare al proprio posto unendosi al canto di fede e di ringraziamento di tutti i fedeli. Dopo aver distribuito la comunione ai settori interni delle transenne, i ministri distribuiranno a quanti sono all'esterno la Santa Comunione. Anche quanti non possono accostarsi alla comunione per la loro condizione di vita, elevino l'anima a Dio, unendosi al Signore Gesù, se stessi nel desiderio di Lui. Per i celiaci, davanti al palco, vi sarà un ministro istituito e sarà riconoscibile con un ombrello dal nastro giallo. L'ostia consacrata si può ricevere in bocca o sulle mani. In questo caso la si assuma davanti al ministro e poi si torni al proprio posto in silenzio, in raccoglimento, con ordine. In diretta da Piazza San Marco a Venezia per la celebrazione diocesana di apertura dell'anno della fede. Altro momento fondamentale è questo che stiamo vivendo, stanno vivendo gli oltre 3.000 fedeli presenti in Piazza San Marco, quelli che sono venuti apposta e poi tutte le persone che magari sono capitate qui per turismo non sapendo che oggi c'era questo evento particolare, completamente diverso da quelli che normalmente si vivono in Piazza San Marco dal punto di vista culturale, spettacolare o di divertimento. Questo è un momento di testimonianza, come dicevamo in apertura, la terza messa nella storia che viene celebrata all'aperto in piazza, 1985, 16 giugno, con Papa Giovanni Paolo II in occasione della sua visita a Venezia, 3 giugno 95 a conclusione dell'anno marciano con il cardinale Marco Cè e appunto oggi terza occasione, 14 ottobre 2012. L'omelia del Patriarca, ne riprendiamo alcuni passaggi, è un'omelia molto lunga, molto intensa e che poi diventerà anche in forma più estesa una lettera consegnata all'intera diocesi. Nella prima parte Monsignor Moraglia ha incentrato la riflessione sul fatto che la fede è certamente individuale, ma è poi comunitaria. La dimensione comunitaria, ha detto, non schiaccia l'io personale, ma fa in maniera che il singolo credente non cada in una fede fai da te, che è oggi molto di moda, e più volte l'ha richiamata anche il Santo Padre. La fede fai da te è un rischio ricorrente per la nostra epoca, segnata dall'individualismo. L'anno della fede, ha detto ancora il Patriarca, è un itinerario personale del discepolo ed ecclesiale dell'intera Chiesa. Lo stesso Papa ha ricordato nella sua lettera di indizione dell'anno della fede che la professione di fede, ed è stata fatta anche qui in piazza poco fa, è un atto personale e insieme un atto comunitario. È la Chiesa il primo soggetto della fede. Io credo. È anche la Chiesa, nostra madre, che risponde a Dio con la sua fede, che ci insegna a dire io credo, noi crediamo. La fede si esprime secondo modalità e gesti pubblicamente rilevabili. È un altro passaggio significativo dell'omelia. La domenica, le festività della religiosità popolare, gli usi e costumi di determinate popolazioni. Il rischio è di confondere il patrimonio con un passato che invece non ha più la forza di incidere sul presente dei singoli e della comunità. E poi un invito alla Chiesa particolare che è in Venezia ad accogliere le quattro grandi costituzioni conciliari del Concilio Vaticano II, di cui si celebrano i 50 anni, e il Catechismo della Chiesa Cattolica, di cui ricorrono i 20 anni dalla pubblicazione. Chiedo, ha detto il Patriarca, che questo impegno di lettura e di ripresa, di approfondimento sia assunto da tutti, in modo particolare dai parroci. Il Catechismo entri fin da questi primi mesi dell'anno della fede abitualmente nella pastorale ordinaria delle parrocchie, delle comunità pastorali, dei movimenti, delle associazioni. Un proficuo approccio al Catechismo è offerto dal compendio del Catechismo, che è, diciamo, una sintesi che introduce e presenta quanto il testo dice sulla professione di fede, sui sacramenti, sulla vita cristiana e sulla preghiera della Chiesa. E aggiungiamo anche che poi un testo di catechismo importante è certamente quello scritto, ma è anche, forse ancora di più, nella nostra epoca in cui è importante l'immagine, sono importantissime le immagini dell'arte sacra, e Venezia è stracolma di questi tesori, di questo libro da leggere, ma bisogna ovviamente conoscere l'alfabeto, conoscere bene per apprezzare non solo un'opera d'arte in quanto tale, ma per il contenuto che essa porta con sé. E su questo l'ufficio beni culturali, l'ufficio anche per il turismo e i pellegrinaggi del Patriarcato sta lavorando da tempo per proporre dei percorsi che siano artistici ma anche spirituali all'interno della città di Venezia e dei suoi ricchissimi tesori d'arte e di storia. Mentre prosegue la distribuzione della comunione dell'Eucaristia ai fedeli presenti in piazza e anche qui sull'altare della celebrazione, ricordiamo che alla fine sarà pubblicata una è distribuita la lettera del Patriarca, una piccola anticipazione è già presente nel nostro sito internet bluradioveneto.it, dove potete anche riprendere in audio e in scritto il testo dell'omelia del Patriarca. anche le note dell'Ave Verum mozartiane ci hanno aiutato a vivere questo momento. Ci scusiamo per una brevissima interruzione del segnale audio, non sempre la tecnologia che funziona perfettamente poi funziona al 100%, un piccolo passaggio a vuoto di cui ci scusiamo, ma indipendente dalla nostra volontà. Siamo ormai verso la conclusione di questa celebrazione in piazza e ora l'orazione conclusiva di Monsignor Moraglia. Preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare alla sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Al termine di questa celebrazione verrà distribuita la prima istruzione preparata dal Patriarca Francesco come primo passo del nostro itinerario nell'anno della fede, un testo che ci aiuterà a continuare personalmente e comunitariamente la riflessione guidati dal Magistero del nostro Vescovo. Insieme al libretto riceveremo anche la preghiera scritta dal Patriarca, che potremo recitare ogni giorno e nei nostri incontri comunitari. Prima della benedizione finale desidero dare formalmente consegna alle nostre comunità parrocchiali nella persona dei loro parroci, dare la consegna dell'anno della fede. L'anno della fede dobbiamo viverlo. È una grazia, è un'opportunità. Abbiamo chiesto al Signore di iniziarlo con Lui nella professione di fede più alta. Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Questa realtà liturgica chiede di essere vissuta umilmente ogni giorno. Ai parroci, che sono i tramiti attraverso il dono grande che hanno del sacerdozio, chiedo di far vivere e di vivere con le loro comunità l'anno della fede. E dato che la fede ci chiede di purificarci e ci purifica, ricordiamo che il primo gesto dell'anno della fede deve essere dire al Signore nel sacramento della riconciliazione e penitenza: Signore, io credo, ma aiutami nella mia incredulità. Incominciare da riconoscerci bisognosi della sua misericordia nelle nostre comunità, personalmente, è l'atto giusto. È il passo giusto, è l'unica cosa che noi possiamo fare perché il Signore agisca, prenda possesso delle nostre vite, delle nostre giornate. Guardiamo a chi soffre più di noi, guardiamo a chi è stato provato recentemente negli affetti più cari, guardiamo a chi sta percorrendo l'ultimo tratto di vita, guardiamo a chi attende invece una vita nuova. Cerchiamo di essere capaci di gioire con chi gioisce e di rattristarci con chi è nel dolore. Questo sia il nostro modo di vivere la fede, incominciando, ripeto, tutti tutti, incominciando da noi sacerdoti, a chiedere la misericordia di Dio nel sacramento della riconciliazione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La forza, andate in pace. Abramo e la sua discendenza per sempre. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Con il canto della preghiera vespertina del Magnificat si va a concludere questa celebrazione in diretta da Piazza San Marco a Venezia. Ricordiamo che ne torneremo a parlare ovviamente domattina, vedremo quali saranno anche i riflessi, i commenti nel corso della rassegna stampa dei quotidiani domattina in diretta alle 8:15 con Francesco Galante, poi ne parleremo nel corso dei notiziari ogni due ore dalle 9:30 e poi con grande spazio domani pomeriggio dalle 17 nel corso di Primo Piano, riprendendo anche alcuni passaggi dell'omelia di oggi. Ricordiamo bluradioveneto.it, dove ritrovare, rileggere o riascoltare se preferite il testo dell'omelia, ma anche una sintesi della lettera appena citata dal Patriarca in consegna proprio ai parroci della sua diocesi, mentre la processione sta lentamente ricomponendosi verso la Basilica Marciana. Un altro appuntamento che mi fa piacere ricordare, visto che siamo a Venezia, è fra pochi giorni, 17 ottobre, è il giorno centenario della nascita di Albino Luciani, Patriarca di Venezia, Papa Giovanni Paolo I. Già oggi, ma anche fino a domenica prossima, a Canale d'Agordo, nella sala consiliare, il suo paese natale, c'è una mostra visitabile tutti i giorni, una mostra filatelico-documentale su Papa Luciani. Mercoledì sarà emesso anche un francobollo commemorativo in onore di Papa Luciani da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con le Poste. Il materiale poi sarà disponibile nell'ufficio postale di Canale d'Agordo. Ci sarà il pellegrinaggio ufficiale della diocesi di Vittorio Veneto, di cui Luciani fu vescovo, con la partenza dalle 16, il ritrovo davanti alla casa natale alle 16, la Santa Messa presieduta da Monsignor Pizziolo alle 16:30, alle 18:30 invece il pellegrinaggio ufficiale della diocesi di Belluno Feltre. Domenica prossima un annullo speciale a cura del circolo filatelico a Gordino, sempre a Canale d'Agordo, e alle 10:30 la presentazione ufficiale di questo francobollo commemorativo di Giovanni Paolo I nei 100 anni, ricordiamo, dalla sua nascita. Con questo arriviamo a chiudere dunque, mentre la processione sta rientrando in Basilica Cattedrale e le luci della sera stanno ormai coprendo con un po' di nuvole che dovrebbero portare pioggia tra la notte e la giornata di domani. Il Patriarca sta salutando i tanti fedeli che hanno assiepato oggi e riempito la piazza. Il saluto ora al sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, c'è anche il vicepresidente della provincia di Venezia, saluto cordiale, lo intravedo da una decina di metri di distanza. Fondamentale in tutte le città, ma forse più ancora a Venezia, il rapporto con le istituzioni civili, visto anche le fasi di trasformazione che le nostre istituzioni locali stanno vivendo in questo tempo, e per la particolarità assoluta e unica che è Venezia nel suo essere città di mare, ma anche città di terra, città di incroci, di persone che vengono, come anche oggi, da ogni parte del mondo e dell'Italia. E con questo arriviamo dunque a chiudere con le note finali del canto e il ringraziamento a Edi Daici per la parte tecnica qui a Piazza San Marco a Venezia, Francesco Galante per il controllo emissione invece a Padova, da parte di Mirko Cavallina a tutti grazie per l'ascolto, per la partecipazione a questo evento speciale, la linea alla regia e a tutti ancora buona domenica.